Egitto, caso Patrick Zaki, non è un paese per attivisti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Questa sera siamo qui per dire un'unica cosa. Il messaggio è univoco e deve arrivare forte e chiaro. Ed è Patrick libero. Egypt was already in the midst of a very acute human rights crisis with a very closed political field and public sphere. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. 16:08, 20 secondi in questo esatto istante, inizia una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani, che è in regia. 349-238-6666, sms, whatsapp, commenti, domande e critiche sul tema che affronteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, complice il caso, l'ennesimo, di un giovane egiziano che al rientro dal un breve soggiorno in Italia è stato arrestato dalle forze di sicurezza egiziane. Ennesimo perché il regime di Al-Sisi ci ha abituato a una serie di arresti, soprattutto giornalisti e attivisti dalla fila lunghissima. Dicevo, questo caso fa riaccendere i riflettori su quello che è lo stato dell'arte dei diritti umani nel vicino paese. Un paese importante con quasi 100 milioni di abitanti, un paese dalla storia recente martoriata, la primavera araba, l'ascesa dei fratelli musulmani, il colpo di stato di Al-Sisi, le successive elezioni e una repressione che si fa sempre più dura. Il caso di Patrick Zaki è sostanzialmente soltanto la punta di un iceberg che oggi proveremo a illuminare, a indagare. Quindi per commentare questo tema potete usare anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Ma adesso, come ogni giorno, andiamo a misurare la temperatura. La prima notizia è stata battuta dalle agenzie pochi minuti fa, è stata anche ripresa da Sergio Nava nel GR, notizia bomba per chi segue le vicende africane. Omar al-Bashir, l'ex padre padrone, il dittatore del Sudan, verrà consegnato alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Era una richiesta che aleggiava da tempo nell'aria, ma francamente in pochi si sarebbero aspettati che il governo di transizione, in cui vi sono sia elementi civili che militari e dove ancora il peso del vecchio apparato del regime militare di Omar al-Bashir pesa ancora, appunto prendesse questa decisione. È, diciamo, l'epilogo, o almeno l'inizio, forse dell'epilogo di una lunga vicenda giudiziaria che riguarda Omar al-Bashir. Era stato condannato per corruzione e occultamento di fondi, era stato condannato a un paio d'anni. Ce ne occupammo del caso, lì era una malversazione per parecchi milioni di euro, anche dalla destinazione, parlo di questi fondi, dubbia. Si erano fatte le voci di transiti in Arabia Saudita, di milizie, del fatto che alcuni soldati sauditi combattessero in Yemen. Insomma, Omar al-Bashir, volenti o nolenti, è stato al centro delle vicende di questo importante paese africano per anni, e ora davanti al Tribunale Penale Internazionale, se andrà a compimento quest'ultimo passo dovuto, si potrebbero riscrivere delle intere pagine di storia che fino a questo momento erano rimaste occultate, nascoste proprio dal suo stesso regime. Tra poco vi porterò in Azerbaigian per fare un po' il punto con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Buongiorni, su quelle elezioni di cui vi abbiamo dato conto anche proprio ieri. Prima però vi parlo dell'India, perché ormai è acclarata la vittoria dell'uomo comune, potremmo dire così, perché Arvind Kejriwal, che ha fondato il partito dell'uomo comune, ha ottenuto questa clamorosa vittoria a Nuova Delhi. Si rinnovava il governo locale ed era, secondo molti analisti e osservatori, un vero e proprio test per il governo indu nazionalista di Narendra Modi. A questo punto, se tutto dovesse andare come sembra, 60 su 70 seggi dell'assemblea legislativa locale andranno proprio a lui, all'uomo comune, che tanto comune evidentemente non è, visto che è riuscito a sconfiggere e a consegnare al partito di Modi, il BJP, appena 10 seggi. Chissà, e questa è la domanda che in tanti si fanno, se segna in qualche modo l'inizio del declino del nazionalismo marchiato indù. Torniamo in Siria, perché a Idlib continuano i colpi di artiglieria e ormai potremmo dire quasi la guerra nella guerra fra turchi e siriani. Un elicottero dell'esercito siriano è stato abbattuto proprio nella regione di Idlib. Non è chiaro chi sia stato a sparare il razzo che ha abbattuto il velivolo uccidendo i due piloti a bordo. Ankara, che supporta i ribelli siriani e quindi quella sacca di resistenza di Idlib che secondo molti analisti è destinata nel giro di poche settimane a cadere, ha riconosciuto l'attacco ma non ha rivendicato la responsabilità. Qua ci sono ovviamente tante ipotesi che possono fiorire: da un lato il fatto che se Ankara rivendicasse quell'attentato, quell'attacco, ci potrebbe essere una ritorsione ancora più forte, un'escalation di violenza; dall'altro si può anche pensare che, nonostante la presenza turca, sia stato un colpo di artiglieria o RPG. In realtà non sappiamo a che altezza volasse l'elicottero, che è partito invece da una delle tante formazioni di ribelli siriani. È utile anche ricordare che tra quei ribelli siriani nella zona di Idlib ci sono anche molte formazioni islamiste. E intanto, sempre nel villaggio di Kamina, se siamo sempre nella zona di Idlib, le ultimissime notizie che arrivano dal terreno riferiscono di un attacco aereo da parte dell'aviazione russa contro le forze turche nei pressi di quel villaggio. Insomma, continuiamo noi della redazione di Nessun Luogo Lontano a tenere d'occhio la zona di Idlib, perché il rischio di un'escalation, di un coinvolgimento di attori esterni internazionali, sembra sempre più alto. Come vi dicevo, Azerbaigian, abbiamo raccontato di queste elezioni avvenute domenica 9 febbraio, le elezioni parlamentari. A vincere sono state le forze di governo vicine al presidente di lungo, anzi dovremmo dire ormai lunghissimo corso, Ilham Aliyev, al potere, pensate, dal 1993, un paese ricco, ricchissimo di gas e petrolio, 9 milioni e passa di abitanti, che ha subito negli anni una sostanziale e decisa deriva autocratica. E adesso che cosa accadrà? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Abbiamo qualche difficoltà a raggiungere Roberto Bongiorni. Io vado sui vostri SMS al 349 238 6666. C'è qualcuno che già sta commentando quella che è l'incredibile vicenda dello studente che si era recato per un master a Bologna, studente egiziano, anche attivista per i diritti umani, in particolare gender equality, quindi diritti uomini, donne, LGBT, eccetera, che appunto, tornato al Cairo, è stato arrestato immediatamente, sembra per un mandato di arresto che risaliva ad alcuni mesi prima. Vi farò sentire delle voci dal Cairo, delle voci dal campo. Prima però torniamo in Azerbaigian, lo facciamo con Roberto Bongiorni. Roberto, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, tutto come previsto, direi. Ha vinto il partito, le forze di governo vicino al presidente di lunghissimissimo corso, anche se qualche osservatore ha puntato il dito su presunte irregolarità. Tu cosa ci racconti, Roberto? Ma dunque, che fossero la cronaca di una vittoria annunciata, quella dello IEP, del presidente, era praticamente scontato. Anzi, l'opposizione ha mantenuto gli stessi seggi, 10 soltanto su 125. Ma quanto all'irregolarità, è la campagna elettorale che di solito in Azerbaigian tende a discriminare i partiti più piccoli. Qua gli osservatori, arrivati all'ultimo momento, hanno detto che era tutto regolare. Insomma, comunque qualcosa sicuramente durante la campagna elettorale c'è stato. Devo dire una cosa, che è la prima volta che solo un partito dell'opposizione decide di boicottare. Gli altri gli hanno partecipato, ma con risultati deludenti. Però c'era qualcosa di interessante a questo voto, più che il risultato stesso. Sì. L'Azerbaigian è un paese importantissimo, il primo partner commerciale dell'Italia, sarà il paese che permetterà nel 2020 all'Europa di alleviare la dipendenza energetica dal gas russo, perché inizierà il Trans-Adriatic Pipeline, la parte finale del gasdotto che porterà il gas zero in Europa. È un paese, come tu sai benissimo, strategicamente importante nel Caucaso, un vaso di coccio e mezzo vaso di ferro dalla Russia all'Iran, alla Turchia, e questa volta ha chiamato delle elezioni anticipate, delle snap election. Perché? Perché, messo in difficoltà dal crollo dei prezzi del barile partito dal 2014, il governo azero a un certo punto ha detto: qui devo diversificare. Per diversificare l'economia ha però dovuto rimuovere le poltrone più ingombranti, ossia quell'apparato cresciuto all'ombra dell'Unione Sovietica, nominati dal padre Heydar Aliyev, il padre dell'attuale presidente, sì, che erano un po' scomodi, rimpiazzandoli con giovani di nuova generazione che hanno studiato all'estero. Questa è un po' la novità in Azerbaijan e si spera che con le riforme si muova anche più celermente il cammino verso la democrazia. Ecco, ancora una volta Roberto Bongioni ci aiuti a sottolineare l'importanza strategica ed energetica di un paese ignorato dai più, dalla storia recente anche piuttosto martoriata, il Nagorno-Karabakh, la dissociazione dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, insomma, anche lì ha portato i carri armati che entravano a Baku, una storia molto molto dolorosa, ed è un tentativo anche di, come dire, provare a normalizzarsi, anche cercando di evitare quella deriva autocratica che in tante repubbliche dell'ex Unione Sovietica si è vista. Roberto Bongioni, al di là del rapporto privilegiato che esiste con l'Italia, soprattutto economico, è un paese isolato l'Azerbaigian in generale o gode di una certa osmosi nell'area? È un paese furbo, perché è con le sue grandissime risorse energetiche. Per metto in contatto con il ministro del petrolio, ma anche i vertici della SOCA, la compagnia energetica azera nazionale, dispongono di tanto tanto gas, petrolio, che comunque offrono ai paesi vicini e usano come grimaldello per avere relazioni neutrali. L'Azerbaigian è molto bravo ad avere relazioni con tutti i paesi, anche i paesi in conflitto tra di loro. Per esempio, relazioni ottime con la Russia, come con la Turchia, con la Georgia, con altri paesi. E addirittura una le destinazioni favorite della Cina, Baku, il porto, per costruire la via della seta. Quindi è un paese molto strano. Pensate una cosa, mi permetto di aggiungere, ha delle ottime relazioni con Israele, è il paese musulmano più laico. Non esiste, non che io sappia, ma penso che non sia... Non c'è un paese, penso, al mondo dove musulmani sciiti e sunniti pregano nella stessa moschea, dove praticamente ci sono 50.000 ebrei che vivono accanto a cristiani, a musulmani, e ci sono un sacco di matrimoni misti. È un paese davvero molto particolare. Grazie mille. Roberto Bongioni ci ha fotografato le importanti lezioni di un paese che dai più ignorato, ma è, come risultava dal racconto di Roberto, anche un formidabile laboratorio di convivenza, di sperimentazione sociale, ma anche economica e politica. Vedremo se il super presidente Aliyev, ormai al potere da tantissimi anni, farà anche qualche concessione a quelli che, secondo i detrattori, appunto, sono minoranze che non trovano voce. Grazie mille Roberto Bongioni per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a tutti, grazie. L'ultima odyssey che vogliamo toccare, l'ultima notizia del nostro termometro internazionale, ci porta, guarda un po', in Libia, quindi giù tutto. Bengasi ha 13 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, un giorno di gasolio, 17 di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, due giorni gasolio, due giorni GPL. Sebha non ha più capacità di benzina e GPL, mentre ha soli 10 giorni di stoccaggio di gasolio. La Central Bank of Libya ha dichiarato che le perdite derivanti dal blocco della produzione di petrolio ammontano a 2 miliardi e mezzo di dollari. Adesso, come promesso, andiamo in Egitto perché cercheremo di chiarire meglio quelli che sono i tanti punti oscuri della vicenda di Patrick George Zaki, lo studente che al suo ritorno da una permanenza, un soggiorno per motivi di studi, un master a Bologna, è stato arrestato all'aeroporto del Cairo, poi portato ragionevolmente in una delle sedi dell'intelligence, della polizia segreta egiziana. Lì è stato, secondo le parole dell'avvocato, è stato torturato e malmenato, un lavoretto da professionisti, come ha riferito Laura Capone oggi sul Fatto Quotidiano, che è riuscita a sentire anche uno dei suoi avvocati. L'hanno fatto in modo che non rimanessero segni visibili sul corpo del giovane attivista, adesso in carcere. Vi rimarrà per 15 giorni perché il processo è fissato per il 22 di febbraio. La legge egiziana, che sempre più assomiglia a una legge marziale, consente di incarcerare in maniera preventiva gli accusati e poi rinverdire quell'ordine di carcerazione preventiva praticamente in un tempo quasi illimitato. Da ciò la preoccupazione, gli scudi levati da parte di tanti attivisti, organizzazioni di difesa dei diritti umani e anche parte della società civile egiziana, quella fetta che ancora resiste rispetto alle bordate di un generale al-Sisi che, lo sentirete dalla voce dei miei ospiti, sembra fare ripiombare l'Egitto non solo ai tempi di Mubarak, ma addirittura a tempi ancora più oscuri. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. C'era un ascoltatore che ironicamente sbeffeggiava i diktat dei ragazzotti italiani, così li definiva. Abbiamo fatto sentire all'inizio quella che sono dei flash mob che gli studenti non soltanto di Bologna ma in tantissime parti del mondo Free Patrick sta diventando uno degli hashtag più di tendenza sui social. Insomma, questo ascoltatore puntava il dito su questo diktat perentorio, sto leggendo, della ragazza che esigeva dall'Egitto la liberazione del giovane egiziano. Laggiù staranno già tremando dalla paura. Un po' di consapevolezza di se stessi e della propria importanza non le farebbe male, ma, gentile ascoltatore, qui è un grido di allarme e di dolore fatto da uno studente, un compagno di studi di Patrick, appunto. Io credo che quell'animosità, quel calore, quella emotività ci stia assolutamente tutta. Non penso di, come dire, dover esigere da uno studente il cui amico è stato rapito, malmenato e torturato un trattato di diplomazia e di geopolitica. Si scende in strada, si manifesta, come è stato fatto anche con Giulio Regeni. Le due vicende sono state forse indebitamente accostate, ma non tanto per non voglio entrare assolutamente nel campo dei diritti, ma per il fatto che da una parte c'era un cittadino egiziano, c'è un cittadino egiziano, dall'altra parte c'era un cittadino italiano, quindi è bene comunque distinguere, ma per, come dire, correttezza e competenza dell'informazione, i due casi. Detto ciò, entrambi rientrano in una stretta repressiva del regime di Al-Sisi. Sono interessanti quelle che sono state le accuse mosse al giovane studente 28enne: diffusione di false informazioni per minare la stabilità dell'Egitto, incitamento alla manifestazione senza permesso, tentativo di rovesciare il regime, uso dei social media per danneggiare la sicurezza nazionale, propaganda per i gruppi terroristici e uso della violenza. Tantissime accuse, alcune, come dire, un pochino forse troppo vaste, no? Per tentare una difesa. Allora vi faccio sentire immediatamente la voce di Andrea Rocca, che è vice direttore di Frontline Defenders. È un ONG con sede a Dublino che è particolarmente sensibile e attiva sul campo dei diritti umani. Patrick, appunto, è stato accusato di queste accuse, scusate la ripetizione, che sono, come dire, dei contenuti molto molto ampi, ci possiamo far rientrare di tutto. Perché vengono mosse accuse così vaghe? Sentite Andrea Rocca. Sono accuse molto vaghe perché fondamentalmente spesso non c'è niente dietro. È una cosa, un'accusa precisa che richiede anche delle prove precise, è più facile da smontare. Un'accusa che è così vaga può essere manipolata al fine poi di condannare la persona, anche quando non c'è assolutamente niente dietro a questa accusa, se non una persecuzione politica. Però il tipo di accusa è interessante proprio perché dimostra quanto la capacità comunque della società civile di comunicare, di utilizzare i social media anche per mobilizzare la società e creare proteste, manifestazioni eccetera, è vista come un rischio. E per questo che tante delle accuse, non solo contro Patrick George ma contro tanti altri difensori dei diritti umani, ruota proprio intorno all'utilizzo di social media come Twitter, Facebook eccetera. Andrea Rocca, vice direttore di Frontline Defenders, questa ONG con sede a Dublino che è particolarmente attiva sul campo dei diritti umani, che sta seguendo da vicino le vicende di Patrick George Zaki, il giovane studente che probabilmente è sotto mandato di cattura persino da settembre, quando ancora era in Italia. Una volta tornato al Cairo per poi recarsi nella sua città natale Mansoura, è stato arrestato e poi torturato e detenuto indebitamente, con queste accuse francamente vaghissime. Cerchiamo di capire meglio il profilo di Patrick George. Lo dicevo, Free Patrick è uno degli hashtag di tendenza su Twitter, si stanno mobilitando, stavamo dando un'occhiata proprio pochi minuti prima di andare in onda, persino studenti in America Latina. È vivo il ricordo di Giulio Regeni e lo sarà sempre, noi cerchiamo di ricordarlo quanto più possibile. Qua siamo di fronte ancora una volta all'ennesimo caso di una per fortuna non sparizione, ci sono anche quelle, ve le racconteremo, ma comunque di un caso di repressione a tutti gli effetti da parte del regime di Al-Sisi. Cerchiamo di capire meglio, dicevo, che cosa faceva Patrick George Zaki. Lui era un attivista anche per l'Egyptian Initiative for Personal Rights. Abbiamo raggiunto il direttore di questa organizzazione, Amr Abdal Rahman, e al quale abbiamo chiesto innanzitutto che cosa fa questa organizzazione in Egitto. Sentite. La nostra è una delle più antiche organizzazioni impegnate nel campo dei diritti umani in Egitto. Ci occupiamo di tutti i diritti civili e politici fondamentali, ma anche di diritti economici e sociali. Forniamo sostegno legale, ma facciamo anche ricerca e raccolta dati sulla situazione. E in questo contesto, qual era il lavoro svolto da Patrick Zaki? Sentite ancora il direttore di Egyptian Initiative for Personal Rights. Patrick ha aderito all'organizzazione un paio di anni fa, nel 2017. È stato uno stagista nella sezione di ricerca sull'uguaglianza dei diritti di genere. Lavoravamo nella stessa unità e io ero il suo direttore. Si occupava di ricerca e di verifica. Ha lasciato l'Egitto 4 mesi fa e si è preso un anno sabbatico. È stato in Iran e all'Università di Bologna. E quando è stata l'ultima volta che Amr Abdal Rahman, scusate, direttore di Egyptian Initiative for Personal Rights, ha sentito o magari è entrato in contatto con Patrick Zaki? Ascoltiamo. Qualche settimana fa, via Facebook. In questo periodo chiunque viva lontano dall'Egitto è spaventato, specialmente se ha un lavoro all'estero. Questo tipo di autorità, e mi riferisco all'attuale governo egiziano, è completamente imprevedibile. Davvero completamente imprevedibile. La reazione a qualsiasi cosa scritta sui social media è spesso del tutto sproporzionata. Quindi tutti quelli che vivono fuori dall'Egitto sono spaventati. Inoltre Patrick era molto popolare sui social media e quindi aveva tutte le ragioni per avere paura. Questa è la voce del direttore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, Amr Abdal Rahman. Buongiorno, ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano, Alessia Melkangi, docente di relazioni internazionali alla Sapienza di Roma. Alessia, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, la questione è particolarmente complessa. Quest'oggi approfitteremo della tua competenza ancora una volta per cercare di radiografare anche quello che è il sistema dei poteri, un potere che sta esercitando, secondo molti osservatori, sempre più abusi, soprattutto su categorie molto precise, giornalisti, attivisti per i diritti umani. E qualcuno addirittura si è spinto in avanti dicendo che la situazione è molto peggio adesso di quando c'era Hosni Mubarak. Pensate che proprio quella repressione da parte di Mubarak aveva portato al 2011 e alle primavere arabe. Prima di riprendere con te e con più calma il discorso, Alessia Melkangi, riesce telegraficamente a rispondermi almeno a quest'ultima provocazione: è peggio Mubarak o è peggio adesso Al-Sisi? So che detta così è un po', insomma, prosaica e ti costringe a una sintesi immediata, però mi sembra una tesi molto provocatoria. Tu cosa dici? Io penso che sia proprio così, purtroppo è peggio oggi, perché come diceva appunto il direttore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, è veramente difficile capire fino a quando e dove si spingerà il regime. Ogni tipo di linea rossa mantenuta nel periodo precedente adesso ormai è oltrepassata. Cercheremo quindi di capire tra pochissimo con te, perdonami, ti interrompo Alessia, devo dare l'informazione finanziaria, proprio fino a dove si può spingere il regime di Al-Sisi, e inizio già a sottolinearlo fin d'ora, fino a dove si può spingere nel silenzio della comunità internazionale. È vero che vi sono alcuni stati che hanno relazioni particolari e intense con l'Egitto, tra cui per esempio l'Italia, ma l'Unione Europea stessa forse potrebbe giocare un ruolo diverso, anche perché vi sono convenzioni internazionali che imporrebbero relazioni di un certo tipo con paesi che però rispettano i diritti umani, e qua mi sa che francamente non ci siamo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. In realtà il tema è sempre lo stesso: l'arresto e la detenzione, le torture di Patrick Zaki, giovane ricercatore universitario egiziano. Al suo rientro in Egitto dall'Italia è stato arrestato, appunto torturato, adesso in attesa di giudizio, con una serie di capi di imputazione anche piuttosto vaghe, accuse di terrorismo, quando in realtà per il momento chi lo conosce evidentemente assolutamente nega. Questa accusa di terrorismo è stata spesso rivolta dal regime per un po' con un occhio, diciamo, alla presenza dei Fratelli Musulmani, un po' perché è un'accusa così vaga che permette strumenti straordinari, quindi evidentemente anche di imprigionare persone innocenti. C'è un ascoltatore che ha scritto parecchi sms, alcune cose anche condividibili, altre assolutamente no. Diciamo, mi soffermo su quelle non condivisibili. L'Egitto è un paese sovrano, avrà il diritto di emettere un mandato di cattura, la polizia di eseguirlo, la magistratura di verificare. Ma di che cosa state parlando? Stiamo parlando di quel paese che, secondo molte organizzazioni, è una delle principali prigioni a cielo aperto per i giornalisti. Andando avanti nel racconto, gentile ascoltatore, vedrà che c'è qualche stortura su come vengono applicati i poteri e sulla divisione dei poteri, perché la riforma recente di Al-Sisi sostanzialmente ha messo i giudici sotto il suo cappello. Con Alessia Melcanci, docente di globalizzazione, relazioni internazionali e storia contemporanea del Nord Africa e Medio Oriente alla Sapienza di Roma, stiamo cercando di ricostruire quello che è il generale contesto in cui è avvenuto quest'ultimo incidente. Alessia Melcanci, molti ascoltatori al 349-238-6666 sottolineano che l'Egitto da sempre è sotto una dittatura, e tanto meglio tanto peggio, nel senso che il ritorno dei Fratelli Musulmani potrebbe fare molta più paura e addirittura destabilizzare l'intero Medio Oriente. Sei d'accordo? Si chiude un occhio e si sacrifica i diritti umani in omaggio a una laicità che ci salva dall'Islam più estremista? Ma questa è una storia abbastanza vecchia, il fatto del poter mantenere la stabilità pur tollerando questi regimi autoritari. Abbiamo visto che non ha funzionato, il fallimento che ha portato alle primavere arabe ha visto come appunto questo binomio non possa reggere. In realtà quello che sta avvenendo oggi in Egitto è l'estremizzazione di una serie di dinamiche da molto tempo presenti. Parliamo oggi di un livello di securitizzazione messo in atto dal sistema militare al potere, ormai elevatissimo, che tocca moltissimi ambiti fino a questo momento concessi e tollerati dal regime: tutte le manifestazioni, l'attivismo sociale, ogni tipo di attivismo, quello che si diceva prima sui diritti di genere in questo caso, possono diventare minaccia alla sicurezza nazionale, che tra l'altro è uno dei capi di accusa che pende sulla testa del giovane egiziano. Sì. Quindi non ci sono più zone franche, non ci sono più zone libere dove è possibile operare oggi. E a dirlo sono le più grandi organizzazioni internazionali come Amnesty International e Human Rights Watch, che ci portano appunto numeri molto pesanti: 60.000 oppositori politici in carcere, più di 2.400 persone condannate a morte negli ultimi anni. Questi sono numeri che sono evidentemente molto più alti rispetto al periodo precedente. Certo. Alessia Melcanci, visto che amiamo anche dare i numeri, rispondere così ad alcuni ascoltatori che, come dire, dubitano di questa deriva autoritaria del regime di Al-Sisi, fotografiamo la situazione dei diritti umani. Sentite. Il 2018 è stato annus horribilis per i diritti umani in Egitto. Come denunciato da Human Rights Watch, tra la fine di gennaio e inizio di febbraio 2018, le autorità egiziane hanno effettuato una serie di arresti arbitrari che ha coinvolto giornalisti, attivisti per i diritti umani e oppositori al regime di Al-Sisi. Tra gli arrestati spicca Abd al-Monyem Abu al-Fotou, capo del Strong Egypt Party e candidato alle elezioni presidenziali del 2012. Ad agosto 2018, un'altra ondata di arresti a tappeto, invece, ha portato in carcere anche l'ex ambasciatore Massoum Marzouk, reo di aver presentato una proposta di referendum sulle dimissioni di Al-Sisi. I migliaia di civili arrestati vengono processati da tribunali militari, in barba al rispetto dei diritti umani e soprattutto alle basilari garanzie di equo processo. Da luglio 2013 ad agosto 2018 sono stati accertati 1.530 casi di sparizioni. Almeno 230 di questi si sono verificati fra il 2017 e il 2018. Una delle accuse che Human Rights Watch muove nei confronti del governo egiziano di Al-Sisi è di operare sparizioni forzate. Il Ministero dell'Interno egiziano ha riconosciuto che 500 persone scomparse su 700, le cui famiglie ne avevano denunciato la scomparsa nel 2015, sono ancora detenute in attesa di processo. Ad essere colpiti dalla mannaia repressiva non sono solo egiziani. Un caso eclatante è quello di Mustafa Kassem, cittadino egiziano e americano, morto in carcere al Cairo in circostanze misteriose. Mustafa fu arrestato in Egitto nel 2013 con l'accusa di spionaggio e, dopo aver subito un processo iniquo, è stato condannato a 15 anni di prigione. Un altro detenuto ucciso in prigione, ha twittato l'attivista Aya Hiyaz. Questo ciò che accade in Egitto, secondo le principali organizzazioni dei diritti umani e dei giornalisti che lavorano in Egitto, per cui mi stupiscono alcuni messaggi che arrivano al 349-238-6666. Cosimo, torture, lei parla del relato o alle prove? Sta continuando a parlare di torture, a che titolo? Solo perché un avvocato sta sfruttando il momento per avere notorietà? Un po' di equilibrio, per favore, così l'ascoltatore conclude il messaggio. Abbiamo detto che è stato l'avvocato di Patrick Zaki a riferire che siano state commesse delle torture. Non sarebbe una novità nel caso del regime di Al-Sisi, anche prima nel caso di Hosni Mubarak. Dubitare, per carità, è lecito, però, come dire, visto che questo episodio, molto probabile, mettiamola così, si inserisce in una lunga serie di episodi già provati e, ahi noi, purtroppo non risolti, faccio fatica a avere, come dire, la sua stessa sospensione di dubbio e di giudizio di fronte a questo caso. Sarò felicissimo di ricredermi quando Patrick Zaki potrà magari richiamare la sua famiglia o tranquillizzare gli amici di studio che sono rimasti a Bologna dicendo: non è accaduto nulla di tutto ciò, non sono stato torturato, l'Egitto è un paese in cui vengono rispettati i diritti umani, esiste una separazione dei poteri che è uno dei problemi. Prima di tornare da Alessia Melcangi vi faccio anche sentire nuovamente la voce di Andrea Rocca, Frontline Defenders, che ci fa una panoramica sulla situazione dei diritti umani in Egitto e ci spiega esattamente come, come dire, la militarizzazione di questo paese porti alle conseguenze che vi stiamo raccontando. Sentite. È una situazione che direi non è esagerato definire disastrosa, è un paese che attraversa una vera e propria crisi dei diritti umani, la tortura da parte delle forze dell'ordine è usata quotidianamente, ogni forma di dissenso viene messa a tacere con la forza e l'utilizzo politico della giustizia, i tribunali non sono indipendenti, il personale civile è processato davanti ai tribunali militari, secondo una statistica più di 15.000 persone e civili sono stati processati davanti ai tribunali militari. È una società fondamentalmente militarizzata e dittatoriale e chiaramente i problemi non sono solo a livello delle libertà fondamentali, dei diritti civili, ma anche di diritti economici, perché è un paese che attraversa una crisi economica da tanti anni, dalla l'instabilità politica ha avuto un impatto forte anche a livello del turismo e di altri settori dell'economia e la gente fa fatica veramente anche ad acquistare semplicemente da mangiare, che poi è uno dei motivi principali che ha portato alle grandi proteste che ci sono state anche nei mesi scorsi. Andrea Rocca, Frontline Defenders, un ONG con sede a Dublino, ci riporta con la memoria ai tempi di qualche mese fa. Vi ricordate quelle proteste di cui vi avevamo dato conto quando intervistammo anche in esclusiva qui in Nessun Luogo Lontano Mohamed Ali, quel sobillatore secondo molti che dalla Spagna in esilio invitò alla rivolta, incitò alla rivolta gli egiziani? Ebbene, solo nel mese di settembre 4.000 arresti e con alcuni colleghi che erano al Cairo siamo stati in grado di documentare il fatto che erano veri e propri raid all'interno delle abitazioni, qualsiasi contenuto sul telefonino ritenuto dubbio diventava immediatamente un capo di imputazione. Alessia Melcangi, siamo quasi in chiusura, ti chiederei anche qui telegrafica, come dire, visto che è il dono della sintesi, quando parliamo di regime egiziano parliamo sempre ovviamente del generale Al-Sisi, ma quanto è ampia la sua struttura di potere, cioè la cerchia dei militari o dei consiglieri che lo consiglia, lo supporta e ha dato questa nuova veste al regime che secondo alcuni, compreso Andrea Rocca, è peggio del regime di Hosni Mubarak? È lui da solo o c'è un gruppetto? Il presidente Sisi ha negli ultimi periodi cambiato molte persone ai vertici del potere di alcune organizzazioni come appunto i servizi di sicurezza, mettendo dei suoi fedelissimi. Quindi è chiaro che c'è un gruppetto che si muove con il presidente e che permette a lui di mantenere il controllo di alcune organizzazioni, di alcune istituzioni. Le forze armate in generale sono state elette quale unico garante dell'ordine costituito e protettori della democrazia per Costituzione. Sì. Quindi militari e al suo interno un gruppo a lui strettissimo, fatto tra l'altro da tutti i suoi figli, che controllano i punti chiave del potere. Quindi è difficile poter pensare appunto che qualcosa si possa muovere in direzione contraria nell'Egitto di Al-Sisi di oggi. Certo, grazie mille. Alessa Melcangelo, ricordo, docente all'Università La Sapienza di Roma, esperta di Egitto. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro, Alessia. Grazie, buona serata. Allora, un po' di ascoltatori al 349-238-6666 che stanno stigmatizzando il messaggio che ho letto dell'ascoltatore precedente, che dubitano di atti certificati di censura, oppressione e tortura. Chi ha dubbi della repressione dell'Egitto sono dei sovranisti impenitenti, il caso Regeni non insegna nulla, ma così scrive un'altra ascoltatrice, forse un altro dice, non avete capito che l'Egitto non è l'Italia. Beh, insomma... non so a chi si riferisse, stiamo proprio cercando di illuminare le storture e quanto, come dire, non sia una democrazia a tutti gli effetti. Tu non puoi essere il padre padrone di un paese e avere nella circhia ristretta dei consiglieri i tuoi figli, perché qua, se no, stiamo parlando sostanzialmente di una monarchia quasi dinastica. Sono in ritardissimo, le strade. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano cerchiamo di accendere i riflettori per illuminare la parte forse più oscura, più nascosta del regime di Al-Sisi, che poi però emerge prepotentemente grazie a episodi di cronaca che stanno mobilitando giovani un po' in tutto il mondo. Lo dicevo poc'anzi, l'hashtag Free Patrick sta diventando un hashtag di tendenza e questo è l'obiettivo degli attivisti che si stanno mobilitando. Un caso eclatante che nasconde una ormai rutinaria utilizzo dell'abuso della forza. Sentirete tra poco Amr Abdelrahman dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, dice il direttore di questa organizzazione. C'è qualche giudice ancora indipendente, speriamo che Patrick Zaki il 22 venga processato da un giudice che riconosca che le accuse rivolte gli sono assolutamente infondate. A proposito delle accuse, un ascoltatore via WhatsApp dice: volevo dire quanto ho detto dall'avvocato Wael Ghali. Patrick non è stato accusato di terrorismo, ma da 5 accuse più gravi che riguardano l'istigazione a rovesciare lo Stato. Spero di non aver detto accuse di terrorismo. Secondo quanto scriveva Laura Capon, collega che scrive fra gli altri per il Fatto Quotidiano e che segue da vicino le vicende non soltanto di Regeni ma anche quest'ultima, quelle egiziane, dicevo i capi di imputazione erano 5. C'è la parola terrorismo, che è il quinto capo di imputazione, propaganda per gruppi terroristici e uso della violenza, ma sicuramente le accuse sono assolutamente gravi. Allora, un po' di sms li sintetizzo. Dicono sostanzialmente, alcuni con tifo francamente da stadio che trovo inesplicabile, meglio Al-Sisi, meglio questo regime che i fratelli musulmani, insomma come se si dovesse scegliere tra un peggio e l'altro. Qua, gentili ascoltatrici e ascoltatori, non è questione di scegliere o di fare il tifo, qui è questione di illuminare quando c'è una situazione d'ombra in cui c'è un palese abuso dei diritti umani e un tentativo di normalizzazione da parte di tanti paesi europei, che invece dovrebbero avere in agenda il fatto di relazionarsi con paesi ed esigere rispetto dei diritti più basilari. Perché sapete, quando Alessia Melcangi dice che quella linea rossa si sposta sempre più in là, non sappiamo cosa può accadere se a un certo punto il regime decide di arrestare arbitrariamente, cioè in che territorio ci stiamo spingendo, non possiamo saperlo. E quindi è per quello che esiste il diritto. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Fatemi tornare dal direttore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights. Nonostante questa repressione da parte del regime egiziano, però molti attivisti continuano la loro attività. Questo caso potrebbe spingerli a tenere un profilo più basso, magari anche sui social, perché vengono evidentemente monitorati continuamente. Sentite cosa dice. I mean, this forces us to be cautious. Questa situazione ci spinge a mantenere un profilo ancora più alto. Non abbiamo altra scelta. Questo paese sta attraversando un'ondata di repressione che non ha eguali dai tempi in cui l'Egitto è diventato indipendente. Se decidessimo di smettere di parlare contro questa repressione, chi altri parlerebbe per noi? Quindi non esiste nessun'altra opzione. Di sicuro stiamo pagando un prezzo molto alto. Ovviamente dobbiamo essere abbastanza prudenti e siamo senz'altro spaventati. Ma, lo ribadisco, non abbiamo altra scelta se non quella di protestare contro questa repressione. option that we have is to speak out against this repression. Amr Abdelrahman, direttore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, che continua a puntare il dito su quella che è la repressione. Ok, fa un ascoltatore, ma se al Sisi lo togliamo poi vengono tutti gli egiziani in Italia, che mi sembra francamente una cosa, una tesi difficilmente difendibile. Poi l'ascoltatore di prima sostanzialmente diceva che chi mi critica è quello che esultava ai tempi della primavera araba pensando che tutti i problemi erano risolti. Noi siamo stati tra i più cinici e i più realisti durante la primavera araba. Io peraltro ho avuto la fortuna in parte di raccontarla dal terreno. È evidente che un regime come quello di Mubarak o adesso di Al-Sisi vada con pugno duro, così come quello di Gheddafi, a pestare duramente sulle tendenze islamiste, su magari alcuni tentativi di estremismo. È altrettanto evidente che però questo è un lapsus a tutti gli effetti, Al-Sisi sta andando a ricreare, non lo dico soltanto io, anzi sono l'ultimo degli osservatori, a ricreare esattamente le stesse condizioni che hanno portato proprio a quella primavera araba. L'Egitto ha un serio problema di disoccupazione, il PIL cresce ma c'è una forbice enorme tra i più ricchi e i più poveri. Chi lavora nell'esercito, soprattutto gli alti ufficiali, evidentemente hanno una serie di benefici. È un'autocrazia a tutti gli effetti. Ancora una volta stupisce, lo ripeto, ma un po' di ascoltatori sono disillusi, tanto quanto me, che l'Unione Europea non faccia sentire la propria voce con una sana diplomazia che imponga anche un rispetto dei diritti umani. (349) 238 6666, abbiamo l'ultimo minuto, un po' di reazioni piuttosto sanguigne degli ascoltatori. I nostri politici fanno letteralmente schifo, gli egiziani, infischiandosi nel caso Regeni, continuano a trattarci come se non esistessimo. E qualcun altro che dice ci vuole una levata di scudi da parte dell'Unione Europea. E un altro ascoltatore, francamente io questi messaggi non li capisco. Buonasera, così Mauro da Udine, ma quale dottore ti dice di andare in Egitto? Era un cittadino egiziano, ci rendiamo conto, era un cittadino egiziano. Oltre alle migliaia di turisti italiani che vanno ogni anno in Egitto, il settore del turismo si sta risollevando, francamente anche questa mi sembra una domanda inconcepibile. Detto ciò, quanto manca? 6 secondi, 5, 4, vai, order, via. I titoli di coda che servono a ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo, tutti voi che siete stati all'ascolto e avete partecipato così attivamente. L'appuntamento naturalmente per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.